Pensateci bene. Se senza leva servono 9.000 newton e la leva dimezza lo sforzo, vi basta calcolare la metà di 9.000.